Libro 4. Tre problemi d'amore. Capitolo 34. Fu un mattino di maggio che Peter Firestone fu seppellito. Nella prosaica zona di Middlemarch, il mese di maggio non era sempre caldo e assolato, e quella particolare mattina un vento gelido trascinava i fiori dai giardini circostanti sui verdi tumuli del cimitero di Lowick. Nubi in rapida corsa consentivano solo di quando in quando a un raggio di sole di illuminare un qualsiasi oggetto, sia brutto che bello, che il caso voleva che si trovasse entro la sua pioggia dorata. Nel cimitero gli oggetti erano di una varietà notevole, perché c'era una piccola folla di provincia che aspettava di vedere il funerale. Si era sparsa la notizia che doveva essere una gran sepoltura. Il vecchio signore aveva lasciato delle istruzioni scritte su ogni particolare e intendeva avere un funerale superiore a chi gli era superiore. Ciò corrispondeva a verità. Infatti il vecchio Firestone non era stato un arpagone le cui passioni erano state tutte divorate dalle passioni sempre smunte e avide di risparmiare, né uno che avrebbe voluto fare un buon affare col suo becchino prima del tempo. Egli amava il denaro, ma amava anche spenderlo per soddisfare i suoi gusti particolari. E forse l'amava più di tutto come mezzo per far sentire agli altri, con maggiore o minore disagio, il suo potere. Se qualcuno a questo punto vuole sostenere che nel vecchio Firestone c'erano dei lati buoni, io non oserò negarlo, ma devo far notare che la bontà è per natura modesta, facilmente scoraggiata, e quando è stata presa, assai agomitata in gioventù da vizi sfrontati, tende a ritirarsi in un estremo isolamento, così che credono più facilmente ad essa coloro che immaginano teoricamente un vecchio gentiluomo egoista, che coloro che si formano un'idea più precisa basata sulla conoscenza della sua persona. Ad ogni modo, aveva preteso un bel funerale e che fossero invitati adesso delle persone che avrebbero preferito starsene a casa. Aveva persino desiderato che le parenti lo seguissero fino alla tomba. E la povera sorella Marta, per questo scopo, aveva intrapreso un viaggio difficile dai Chalky Flats. Lei e Jane sarebbero state del tutto allietate, in maniera lacrimevole, da questo segno, al pensiero che un fratello che aveva disdegnato vederle mentre era in vita aveva potenzialmente gradito la loro presenza quando sarebbe divenuto un testatore, se il segno non fosse stato reso equivoco con la sua estensione a Mrs. Vincy. Le cui spese per uno stupendo crespo sembravano sottintendere le speranze più sfacciate, esasperate da una carnagione fiorescente che lasciava capire abbastanza chiaramente che non era una consanguinea, ma apparteneva a quella classe generalmente antipatica, definita come famiglia della moglie. Tutti noi siamo ricchi di immaginazione sotto una forma o l'altra, perché le immagini sono figlie del desiderio, e il povero vecchio Firestone, che se la rideva molto del modo in cui gli altri lusingavano se stessi, non sfuggì alla compagnia dell'illusione. Nello stendere il programma del suo funerale, certo non chiarì a se stesso che il suo piacere per il piccolo dramma, di cui esso formava una parte, era limitato alla sua previsione. Nel ridacchiare per i fastidi che poteva infliggere con la rigida presa della sua mano morta, egli inevitabilmente mescolava la sua consapevolezza di essere vivo con quella presenza livida e stagnante. E la sua preoccupazione di una vita futura era tutt'uno con un senso di soddisfazione entro la bara. Talché il vecchio Firestone era ricco di immaginazione, a suo modo. Tuttavia le tre carrozze funebri furono riempite secondo gli ordini iscritti del morto. C'erano reggitori di cordoni a cavallo con le fasce e i nastri dei cappelli più lussuosi, e persino i reggitori della bara avevano ornamenti di lutto di una buona qualità costosa. La nera processione, una volta smontata, apparve più numerosa per le piccole dimensioni del cimitero. I tristi volti umani e i neri drappeggi che rabbrividivano al vento sembravano parlare di un mondo in strano disaccordo con i fiori che cadevano leggeri ai raggi di sole sulle margherite. Il prete che venne incontro alla processione era Mr. Cadwallader, anch'egli, secondo le richieste di Peter Firestone, suggerite come al solito da motivi particolari. Siccome nutriva disprezzo per i curati, che chiamava sempre tirapiedi, aveva deciso di farsi seppellire da un pastore con la prebenda. Mister Casebo era fuori discussione, non solo perché declinava mansioni di questo genere, ma perché Thurston nutriva una particolare antipatia per lui, in quanto pastore della sua parrocchia, che godeva di un privilegio sulla terra sotto forma di decime, e anche in quanto pronunciava i sermoni mattutini che il vecchio, seduto nel suo banco e per nulla assonnato, era stato obbligato ad ascoltare dall'inizio alla fine, ringhiando dentro di sé. Non gli andava l'idea di un pastore che, piantato sopra la sua testa, gli predicasse. E i suoi rapporti con Mr. Cadwallader erano stati di genere diverso. Il torrente di trote che attraversava le terre di Mr. Casebo scorreva anche attraverso quelle di Thurston, cosicché Mr. Cadwallader era un pastore che aveva dovuto chiedere un favore invece di predicare. Per di più, era uno dei nobilotti che vivevano a 4 miglia da Lowick ed era in tal modo elevato allo stesso cielo dello sceriffo della contea e di altri dignitari vagamente considerati necessari al sistema sociale. Sarebbe stata una soddisfazione essere seppelliti da Mr. Cadwallader, il cui stesso nome offriva una bella occasione per pronunciarlo male, se uno voleva. Questa distinzione, conferita al pastore di Tipton e Freshit, era il motivo per cui il Mrs. Cadwallader faceva parte del gruppo che osservava il funerale del vecchio Thurston da una finestra al piano superiore della residenza di campagna. Non esultava certo a visitare quella casa, ma le piaceva, come ebbe a dire, vedere la collezione di strani animali che ci sarebbero stati a questo funerale, e persuase Sir James e la giovane Lady Chatham a condurre il pastore e lei in carrozza a Lowick, perché la visita potesse essere del tutto piacevole. Con voi andrò dovunque, Mrs. Cadwallader, aveva detto Celia, ma i funerali non mi piacciono. Oh, mia cara, quando avete un prete in famiglia dovete adattare i vostri gusti. Io l'ho fatto molto presto. Quando sposai Humphrey, mi rassegnai a gradire i sermoni e cominciai col gradirne moltissimo alla fine. Questo ben presto valse per la metà e l'inizio, perché non potevo avere la fine senza gli altri due. No, certamente no, disse la vecchia Lady Chatham con enfasi imponente. La finestra al piano superiore, da cui si poteva vedere bene il funerale, era nella stanza occupata da Mr. Casebo quando gli era stato proibito di lavorare, ma adesso aveva ripreso pressappoco il suo stile di vita consueto, a dispetto di ammonimenti e proibizioni, e dopo aver dato un educato benvenuto a Mrs. Cadwallader, era scivolato di nuovo furtivamente nella biblioteca a rimuginare su un errore degli eruditi a proposito di Cash e Mizraim. Se non fosse stato per gli ospiti, anche Dorotea si sarebbe rinchiusa nella biblioteca e non avrebbe assistito a questa scena del funerale del vecchio Thurston, che, per quanto sembrasse distante dal tenore della sua vita, in seguito le tornò sempre alla mente quando venivano toccati certi punti sensibili della memoria, proprio come la visione di San Pietro a Roma era intrecciata a stati di abbattimento. Le scene che provocano dei cambiamenti fondamentali nel destino del nostro prossimo non sono altro che lo sfondo del nostro, eppure, come un particolare aspetto dei campi e degli alberi, noi li associamo a certi momenti della nostra storia ed essi divengono parte di quel tutto che si trova nella scelta della nostra coscienza più intensa. La vaga associazione di qualcosa di estraneo e incompreso con i segreti più profondi della sua esperienza sembrava rispecchiare quel senso di solitudine causato proprio dall'ardore della natura di Dorotea. I nobili di provincia dei tempi passati vivevano in un'atmosfera sociale rarefatta, dispersi nei loro posti su per la montagna, guardavano con acume imperfetto giù, verso le zone di vita più densa. E Dorotea non si sentiva a suo agio nella prospettiva e nel gelo di questa altezza. Non guardo più, disse Celia dopo che il corteo fu entrato nella chiesa, ponendosi dietro il gomito del marito in modo da potergli abilmente toccare la giacca con le guance. Scommetto che a Dorotea piace. Lei va pazza per le cose malinconiche e la gente brutta. Vado pazza per conoscere qualcosa della gente fra cui vivo, disse Dorotea, che avevo osservato tutto con l'interesse di un monaco durante un viaggio di vacanza. Mi pare che non sappiamo niente dei nostri vicini, tranne che sono dei braccianti. Uno sta a chiedersi continuamente che genere di vita conducano gli altri e come prendono le cose. Sono veramente obbligata a Mrs. Cadwallader per essere venuta a chiamarmi fuori della biblioteca. È giusto che vi sentiate obbligata verso di me, disse Mrs. Cadwallader. I vostri ricchi agricoltori di Lowick sono strani come bufali e bisonti e scommetto che non ne vedete la metà in chiesa. Sono completamente diversi dagli affittuari di vostro zio di Sir James. Mostri, agricoltori senza padroni, non si sa come classificarli. La maggior parte del corteo non è gente di Lowick, disse Sir James. Suppongo che siano eredi venuti da lontano, da Middlemarch. Lovegood mi dice che il vecchio ha lasciato una gran quantità di denaro, oltre che di terre. Pensate un po', quando tanti figli cadetti non riescono a mangiare a proprie spese, disse Mrs. Cadwallader. Ah, fece girandosi al rumore della porta che si apriva. Ecco qua, Mr. Brooke. Mi pareva che prima mancasse qualcuno, ed ecco la spiegazione. Siete venuto a vedere questo strano funerale, naturalmente? No, sono venuto per dare un'occhiata a Casabo, per vedere come va, capite? E a portare una notiziola, mia cara, disse Mr. Brooke facendo cenno a Dorotea mentre questa gli andava incontro. Ho dato un'occhiata in biblioteca e ho visto Casabo sui suoi libri. Gli ho detto che non andava bene, gli ho detto così non farete mai bene, sapete? Pensate a vostra moglie, Casabo. E mi ha promesso di salire. Non gli ho rivelato la mia notizia, gli ho detto che doveva salire. Ora stanno uscendo dalla chiesa, esclamò Mrs. Cadwallader. Mio Dio, che gruppo stupendamente misto. Mr. Lydgate è lì come dottore, suppongo. Ma quella è davvero una donna avvenente e il giovanotto biondo deve essere suo figlio. Chi sono, Sir James, lo sapete? Distinguo Vincey, il sindaco di Middlemarch. Probabilmente sono sua moglie e suo figlio, disse Sir James, guardando con aria interrogativa Mr. Brooke, il quale fece cenno di sì col capo e disse: Sì, ha una famiglia molto per bene. È un uomo molto bravo, Vincey, un onore per l'industria. Lo avete incontrato a casa mia, sapete? Ah, sì, uno del vostro comitato segreto, disse Mrs. Cadwallader in tono provocante. Uno che pratica la caccia coi levrieri, però, disse Sir James, col disgusto di chi pratica la caccia alla volpe. È uno di quelli che succhiano la vita a quei disgraziati tessitori di Tipton e Freshitt. Ecco in che modo la sua famiglia ha un aspetto così bello e lisciato, disse Mrs. Cadwallader. Quelle persone brune, dalla faccia arrossata, servono a farli risaltare molto bene. Dio mio, sono come tante caraffe. Guardate Humphrey. Uno potrebbe immaginarselo come un brutto arcangelo che torreggia su di loro con la sua cotta bianca. È una cosa solenne, però, un funerale, disse Mr. Brooke, se lo prendete sotto quell'aspetto, capite? Ma io non lo prendo sotto quell'aspetto. Non posso portare la mia solennità troppo spesso, altrimenti andrà a brandelli. Era tempo che il vecchio morisse e nessuna di quelle persone è addolorata. Che spettacolo pietoso, esclamò Dorotea. Questo funerale mi sembra la cosa più deprimente che abbia mai visto. È una macchia sul viso del mattino. Non posso pensare che una persona qualsiasi debba morire senza lasciarsi dietro amore. Stava per aggiungere altro, ma vide il marito entrare e sedersi un po' in disparte. La sensazione di cambiamento che la sua presenza le faceva provare non era sempre di felicità. Capiva che egli dentro di sé spesso trovava da ridire su ciò che diceva. Non c'è dubbio, esclamò Mrs. Cadwallader. Ecco una faccia nuova che è uscita da dietro quell'uomo massiccio, più strana di tutti. Una piccola testa rotonda con gli occhi che le escono dalle orbite, una specie di rana, guardate. Deve essere di un altro sangue, penso. Voglio vedere, disse Celia, con rinnovellata curiosità, mettendosi dietro a Mrs. Cadwallader e sporgendosi in avanti sopra la sua testa. Che strana faccia! Poi, passando rapidamente a un altro genere di espressione sorpresa, aggiunse: Ehi, Dodo, non mi avevi detto che Mr. Ladislav era tornato? Dorothea si sentì di colpo allarmata. Tutti notarono il suo pallore improvviso nell'alzare immediatamente gli occhi verso lo zio mentre Casabo la guardava. È venuto con me, sapete, è mio ospite, alloggia con me alla Grange, disse Mr. Brooke col suo tono più calmo, facendo cenno col capo a Dorotea, come se l'annuncio fosse proprio quello che si sarebbe potuto aspettare. E abbiamo portato il quadro sopra la carrozza. Sapevo che la sorpresa vi sarebbe piaciuta, Casabo. Siete voi in carne ed ossa, nelle vesti della Queenate, sapete? Proprio perfetto, sentirete il giovane Ladislav parlarne. Parla insolitamente bene, fa notare questo, quello e quell'altro. Conosce l'arte, ogni cosa di quel genere. Socievole, capite? Vi sta dietro in ogni discorso, quello che mi mancava da tanto tempo. Mister Casebo fece un inchino con fredda cortesia, soffocando la propria irritazione, ma solo fino al punto di tacere. Ricordava la lettera di Will con la stessa chiarezza di Dorotea. Aveva notato che non era fra le lettere che gli erano state messe da parte quando si era ristabilito, e avendo concluso in cuor suo che Dorotea avesse scritto a Will di non venire a Lowick, si era astenuto con orgogliosa sensibilità dal tornare ancora sull'argomento. Ora concluse che lei aveva chiesto allo zio di invitare Will alla Grange e lei capì che era impossibile in quel momento dare una qualsiasi spiegazione. Gli occhi di Mrs. Cadwallader si distolsero dal cimitero, videro una gran pantomima che non le era intellegibile come avrebbe potuto desiderare e non poté astenersi dal chiedere: «Chi è Mr. Ladislaw?» «Un giovane parente di Mr. Casaubon», fu pronto a rispondere Sir James. La sua bontà spesso lo rendeva sveglio e perspicace in tema di questioni personali, e dallo sguardo di Dorothea al marito aveva indovinato che era allarmata dentro di sé. «Un giovanotto molto simpatico. Casaubon ha fatto tutto per lui», spiegò Mr. Brooke. «Vi ripaga di quello che avete speso per lui, Casaubon», proseguì facendo un cenno di incoraggiamento. «Spero che resti con me per molto tempo e che ricaveremo qualcosa dai miei documenti. Ho un sacco di idee e di fatti, sapete, e capisco che è proprio l'uomo adatto per dare ad essi una forma. Ricorda quali sono le citazioni giuste, omnet tulit punctum, e quel genere di roba. Dà agli argomenti un certo indirizzo. L'ho invitato qualche tempo fa, quando eravate ammalato, Casaubon. Dorothea disse che non potevate tenere nessuno in casa, capite? E mi chiese di scrivergli. La povera Dorothea si rendeva conto che ogni parola dello zio era più o meno gradita quanto un granello di sabbia negli occhi di Mr. Casaubon. Ora sarebbe stato assolutamente improprio spiegare che non aveva voluto che lo zio invitasse Will Ladislaw. Non riusciva minimamente a chiarirsi i motivi per cui il marito non gradiva la sua presenza. Un'antipatia che le era rimasta penosamente impressa durante la scena nella biblioteca, ma capiva la sconvenienza di dire alcunché che ne desse un'idea agli altri. Mr. Casaubon stesso, in effetti, non si era raffigurato completamente quei motivi confusi. Il senso di irritazione in lui, come in tutti noi, cercava piuttosto giustificazioni che la conoscenza di se stesso. Ma desiderava reprimere i segni esteriori e solo Dorothea riuscì a distinguere i mutamenti sul volto del marito prima che questi osservasse, con un inchino di maggiore degnazione e un cantilenare più pronunciato del solito. «Siete estremamente ospitale, mio caro signore. Vi devo essere riconoscente per destinare la vostra ospitalità a mio parente». Il funerale ora era terminato e il cimitero si stava svuotando. «Ora potete vederlo, Mrs. Cadwallader», disse Celia. «È proprio come una miniatura della zia di Mr. Casaubon che sta appesa nel salotto di Dorothea. Piuttosto attraente». «Un giovincello molto carino», disse Mrs. Cadwallader in tono secco. «Cosa ha intenzione di fare vostro nipote, Mr. Casaubon?» «Scusatemi. Non è mio nipote, è mio cugino». «Beh, sapete», si intromise Mr. Brooke, «sta provando le ali. È proprio il genere di giovanotto che può far strada. Io sarei lieto di offrirgli l'occasione propizia. Sarebbe un buon segretario, ecco, come Hobbes, Milton, Swift, uno di quel genere». «Capisco», disse Mrs. Cadwallader, «uno che può scrivere dei discorsi». «Adesso vado a prenderlo, Casaubon?» fece Mr. Brooke. «Non è voluto entrare finché non lo avessi annunciato, capite? E andremo giù a guardare il quadro. Lì siete voi in carne ed ossa, un genere di pensatore profondo e sottile con l'indice sulla pagina, mentre San Bonaventura o qualcun altro piuttosto grasso e florido sta alzando gli occhi verso l'eternità. Tutto è simbolico, capite? Lo stile superiore di arte. Mi piace fino a un certo punto, ma non troppo. Si fa alquanta fatica a starci dietro, capite? Ma voi, Casaubon, ci siete di casa in queste cose e la canna del vostro pittore è buona. Solidità, trasparenza, tutta quella roba lì. Una volta l'ho studiata molto. Comunque, ora vado a prendere Ladislav. Capitolo 35. Quando gli animali entrarono nell'arca a coppie, si può immaginare che le specie affini esprimessero molte osservazioni personali l'una sull'altra e fossero tentate di pensare che tante specie che attingevano alla stessa riserva di foraggio fossero superflue, in quanto ciò portava alla riduzione delle razioni. Temo che il ruolo sostenuto dagli avvoltoi in quell'occasione sarebbe troppo penoso da rappresentare per l'arte, poiché quegli uccelli hanno lo svantaggio di essere nudi attorno alla gola ed evidentemente non fanno tanti riti e cerimonie. Lo stesso genere di tentazione si presentò ai carnivori cristiani che formavano il corteo funebre di Peter Firston. Infatti, la maggior parte di loro aveva la mente rivolta a una riserva limitata di cui a ciascuno sarebbe piaciuto impossessarsi quasi per intero. I consanguini, da tempo riconosciuti come tali e parenti acquisiti, costituivano già un notevole numero che, moltiplicato per le possibilità, presentava un bel campo per congetture gelose e patetiche speranze. La gelosia verso i Vinci aveva creato una comunanza di ostilità fra tutti i consanguini di Thurston, cosicché, in assenza di qualsiasi indicazione precisa che uno di loro avrebbe avuto più degli altri, il timore che Fred Vinci, dalle lunghe gambe, entrasse in possesso delle terre era necessariamente predominante, sebbene questo lasciasse abbondante materia e campo per gelosie più vaghe, come quella nutrita per Mary Garth. Solomon trovò tempo per riflettere che Jonah era immeritevole e Jonah per tacciare Solomon di cupidigia. Jane, la sorella maggiore, sosteneva che i figli di Martha non si sarebbero dovuti aspettare quanto i giovani Whale. E Martha, più lassista in tema di primogenitura, era addolorata dal pensiero che Jane fosse così avida. Questi parenti più stretti erano naturalmente impressionati dalle speranze ragionevoli di cugini di primo e secondo grado e ricorrevano all'aritmetica per calcolare le grosse cifre a cui potevano ammontare dei modesti lasciti, se di questi ce ne fossero stati troppi. Ad ascoltare il testamento erano presenti due cugini di primo grado e un cugino di secondo, a parte Mr. Tremble. Questo cugino di secondo grado era un commerciante di tessuti di Middlemarch, dai modi educati e dalle spiranti superflue. Gli altri due cugini erano due anziani signori di Bressing, uno dei quali consapevole delle proprie pretese a causa delle spese fastidiose da lui sostenute in regali di ostriche e altri cibi fatti al ricco cugino Peter. L'altro, completamente taciturno, le mani al mento appoggiate su un bastone, era consapevole di pretese basate su nessuna azione gretta, ma sul merito in generale. Entrambi i reprensibili cittadini di Bressing avrebbero voluto che Jonah Thurston non vi abitasse. Il beningegno di una famiglia di solito è meglio accolto fra gli estranei. Ma sì, Trumbull stesso è piuttosto sicuro di 500 sterline, su questo ci potete contare. Non mi meraviglierei se mio fratello gliene avesse promesse, disse Solomon riflettendo ad alta voce con le sorelle la sera prima del funerale. Dio Dio, fece la povera sorella Martha, la cui idea delle centinaia di solito si limitava alla montare della pigione scaduta. Ma al mattino tutte congetture furono turbate dalla presenza di uno strano partecipante al funerale, che era schizzato fra di loro come se provenisse dalla luna. Costui era l'estraneo descritto da Mrs. Cadwaller come una faccia da ranocchio, un individuo di circa 32 o 33 anni, i cui occhi fuori delle orbite, la bocca dalle labbra sottili e curvate all'ingiù, e i capelli, bellamente pettinati all'indietro su una fronte che sprofondava d'improvviso al di sopra della cresta delle sopracciglia, conferivano certamente al suo volto una fissità di espressione tipica dei batraci. Ecco chiaramente un nuovo legatario, altrimenti perché era stato invitato al funerale. A questo punto si presentavano nuove possibilità, che sollevarono una nuova incertezza e bloccarono quasi ogni osservazione nelle carrozze dei parenti in lutto. Sentiamo umiliati dall'improvvisa scoperta di un fatto che è esistito tranquillamente, che forse ci ha guardato segretamente, mentre noi abbiamo costruito il nostro mondo completamente ignari di esso. Nessuno aveva visto in precedenza questo equivoco sconosciuto, tranne Mary Garth, la quale non sapeva altro di lui a parte il fatto che era venuto un paio di volte a Stone Coor, quando Mr. Thurston stava da basso, e si era intrattenuto da solo con lui per diverse ore. Lei aveva trovato l'occasione propizia per farne cenno al padre e forse quelli di Caleb furono gli unici occhi, tranne quelli dell'avvocato, che esaminarono l'estraneo più con curiosità che con disgusto o sospetto. Caleb Garth, nutrendo poche speranze ed essendo ancor meno avido, era interessato alla verifica delle proprie supposizioni e la calma con cui si sfregò il mento, quasi sorridendo e lanciò sguardi intelligenti come se stesse giudicando un albero, era in contrasto marcato con l'allarme e il disprezzo visibili sugli altri volti, quando lo sconosciuto in lutto, che da quanto si capì si chiamava Rig, entrò nel salotto rivestito di pannelli di legno e si sedette vicino alla porta per far parte dell'uditorio al momento della lettura del testamento.